giudici fuori dalla realtà delle cose. L'agenzia di rating replica: i nostri sono giudizi apolitici. Borse positive, spread poco sotto i 390 punti, la Cina conferma la fiducia nell'eurozona. Roma, maxi operazione dopo gli agguati, blitz di carabinieri e polizia, 25 arresti. Torna il campionato, l'Inter di Gasperini gioca a Novara dopo 55 anni. Una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Questi dunque i nostri titoli, che partono dal declassamento durante la scorsa notte dell'Italia. Le borse hanno reagito bene, ma c'è stato un botta e risposta tra governo e l'agenzia di rating Standard & Poor's, e soprattutto sono arrivate proprio poco fa le parole della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia da Bologna. O questo governo, ha detto, è in grado di varare riforme serie oppure deve andare a casa. È evidente, queste sono le parole che ha pronunciato la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia poco fa a Bologna, evidentemente a commento di questa giornata particolarmente difficile. Lo abbiamo detto, la reazione delle borse è stata positiva, quella del governo decisamente un po' meno. Partiamo allora da queste reazioni in diretta con Vincenzo Viglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Tutto nel giro di poche ore, un confronto che non ha precedenti, quello tra il governo e l'agenzia di rating. Italia declassata, dice Berlusconi, tutta colpa degli organi di informazione, attacca il premier che aggiunge le valutazioni di Standard & Poor's appaiono viziate da considerazioni politiche più che dalla realtà dei fatti. Il Presidente del Consiglio quindi ricorda: il governo ha sempre ottenuto la fiducia dal Parlamento dimostrando la solidità della propria maggioranza. Pronta la replica da New York: i rating sovrani di Standard & Poor's sono valutazioni politiche e prospettiche del rischio di credito fornite agli investitori. I nostri giudizi, prosegue l'agenzia internazionale, non intendono dare alcun suggerimento sulle politiche che un governo dovrebbe o non dovrebbe perseguire. Compatta la maggioranza in difesa dell'esecutivo, la Lega chiede tuttavia un piano per la crescita, sentiamo il capogruppo Reguzzoni. È ancora una prova che serve stabilità a questo paese, serve soprattutto quello che la Lega chiede da tempo, cioè un provvedimento sull'economia che serva a dare impulso alle nostre famiglie, le nostre imprese. Il giudizio, diciamo, che ci aspettavamo, quasi scontato, è successo agli Stati Uniti d'America, succede a tutti i paesi in una congiuntura economica così difficile, ma proprio per questo motivo occorre fare quelle riforme che consentano di far ripartire la nostra economia. E proprio in tema di sviluppo, ricordo che in questo momento al Ministero dell'Economia è in corso un vertice tra governo, industriali e banche per mettere a punto un provvedimento per la crescita. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Sin qui la maggioranza, ma sentiamo le reazioni delle opposizioni. Il governo non ha più credibilità e per Berlusconi è arrivato il momento di fare un passo indietro. Secondo le opposizioni, il declassamento del rating italiano deciso da Standard & Poor's è una conferma di quanto detto finora. L'esecutivo vada via o pagherà il paese, ripete stamattina il democratico Letta, a margine dell'incontro con gli amministratori locali del partito convocati da Bersani per fare il punto sui tagli previsti dalla manovra. Non è un'invenzione dei media, è una notizia brutta, negativa per il nostro paese, per le famiglie e per le imprese. Ecco perché diciamo che questo governo deve andare a casa e diciamo che c'è bisogno di un esecutivo di responsabilità nazionale con il Quirinale e Banca d'Italia che facciano da grandi garanti e un impegno di tutte le forze politiche a mettere in campo quelle riforme per riportare l'Italia in Serie A. A chiedere un governo di responsabilità nazionale stamattina è anche il presidente dell'UDC Buttiglione, secondo il quale ogni giorno in più di permanenza di Berlusconi costa al paese miliardi di euro. L'Italia è stata declassata perché il premier ha perso tempo, incalza anche l'Italia dei Valori, così Donadi. È ormai evidente al mondo che la crisi di credibilità italiana è crisi di credibilità di un governo lacerato, contraddittorio e pieno di guai giudiziari. La smettano di tenere in ostaggio il paese, si dimettano, è l'unico modo per ridare speranza all'Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Allora, dunque, queste sono state le reazioni dopo la notizia della notte. Abbiamo sentito le reazioni delle parti sociali con gli industriali, la dura presa di posizione della presidente di Confindustria. Abbiamo sentito le reazioni del mondo della politica, maggioranza e opposizione. Le piazze finanziarie hanno reagito bene. In diretta, Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Effettivamente gli operatori ci hanno detto che la decisione di Standard & Poor's era attesa, anche se arrivata un po' prima del previsto, per cui le piazze finanziarie del vecchio continente hanno avuto un avvio negativo. Poi hanno rapidamente invertito la direzione e adesso sono tutte positive, a cominciare da Milano che guadagna l'1,36% sul FTSE MIB, meglio Francoforte in rialzo di 2 punti, Parigi più 1,28, Londra più 1,28% e l'euro sul dollaro addirittura vicino a 1,37 il rapporto di cambio. La reazione più interessante è stata però sul mercato obbligazionario, perché ci si aspettava una partenza più violenta per quello che riguarda lo spread, il differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e quello tedesco. Stamattina si è in apertura del mercato riavvicinato alla soglia dei 400 punti base per poi scendere intorno ai 380-385. Alcuni operatori poco fa ci hanno spiegato in diretta a Salva Danaio che è intervenuta di nuovo la Banca Centrale Europea acquistando titoli sia italiani che spagnoli per un importo complessivo di 500 milioni di euro e probabilmente anche questo aspetto stamattina ha contribuito a ridare un po' di serenità al mercato e per ora è tutto, Anarita. Grazie Deborah Rosciani. Lo abbiamo sentito, il differenziale è partito sprint, poi c'è stato un contenimento evidentemente per un intervento esterno, come avete sentito anche in Salva Danaio. Che cosa potrebbe succedere nelle prossime ore? Noi lo chiediamo a Moria Longo del Sole 24 Ore, che ringraziamo per essere con noi. Moria. Buongiorno a tutti. Io credo che il restringimento dello spread dopo un picco iniziale vicino ai 400 punti base sia in parte dovuto all'intervento della Banca Centrale Europea, ma soprattutto penso sia dovuto al fatto che Standard & Poor's non ha detto nulla di nuovo ai mercati. Che l'Italia abbia un debito pubblico altissimo, pari al 117% del PIL, lo sanno tutti. Che la crescita economica italiana sta scendendo, sta calando, lo sanno tutti, lo dicono tutti a tempo. Che l'instabilità politica sia un punto di debolezza per l'Italia, non solo per l'Italia, ma in questo caso parlando dell'Italia, lo sanno tutti. Quindi Standard & Poor's di fatto non ha aggiunto nulla a ciò che i mercati sapevano. L'unica novità è che questo declassamento non era atteso così a breve termine, ma era atteso un po' più avanti. Per questo i mercati, credo, abbiano dopo una prima reazione negativa, siano tornati, sì aiutati dagli acquisti della Banca Centrale Europea, ma anche dal fatto che il declassamento di Standard & Poor's non ha aggiunto nulla di nuovo alla situazione che tutti già conoscono sull'Italia, che è una situazione difficile. L'Italia ha bisogno di crescita economica, perché se no un debito così elevato non è più sostenibile, soprattutto con tassi di interesse già molto alti. Grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore. I riflettori sono puntati anche sulla Grecia. All'Ecofin nel weekend nessuna intesa, ad Atene riunioni serrate anche la scorsa notte, ma accordo ancora lontano per evitare il default. Stasera il governo greco ci riprova e ad Atene c'è Vittorio Darolde del Sole 24 Ore. Vittorio. Sì, la situazione qui è molto tesa, c'è una continua braccio di ferro tra il governo Papandreou, che cerca di resistere alle pressioni della cosiddetta Troica, quindi dai funzionari composti dalla Banca Centrale Europea, Unione Europea e Fondo Monetario, che chiedono riforme strutturali, in particolare chiedono di tagliare 120.000 posti dai dipendenti pubblici. Questo naturalmente sarebbe un motivo di scontro forte con i sindacati e naturalmente farebbe aumentare la tensione sociale, e resta comunque il problema che oggi sui giornali esce per la prima volta la possibilità che ci sia un referendum sull'euro, quindi se continuare con queste misure di austerità a tappe forzate oppure lasciare, abbandonare l'euro e tornare alla dracma, svalutando e quindi tornando a vecchi sistemi, ma che il cittadino greco, che vede continui aumenti delle tasse, potrebbe a questo punto forse essere tentato di prendere. Grazie a Vittorio Darolde da Atene. Dunque stasera ci sarà una nuova riunione e sapremo che cosa sarà deciso. Il governo italiano in difficoltà dal fronte economico, ma in difficoltà anche per i guai giudiziari del premier Berlusconi. Allora sentiamo da Raffaella Calandra quali sono le ultime novità delle inchieste in corso, soprattutto quella di Bari. Raffaella. Sì, è così, Annarita. 12 appalti, una torta da 51 milioni e un interrogativo sullo sfondo. Silvio Berlusconi cercò di favorire Giampaolo Tarantini con Finmeccanica, anche se quegli affari non andarono in porto. I magistrati di Bari infatti stanno sviluppando in un nuovo fascicolo ad hoc i sospetti già messi nero su bianco nell'avviso di conclusione dell'indagine principale. Attraverso i contatti col premier e il giro di escort, hanno scritto i PM, Tarantini puntava ad allacciare rapporti affaristici con i vertici di Protezione Civile e Finmeccanica, vale a dire due pilastri della struttura pubblica. Il G8, le frequenze di Isoradio, l'acquedotto con l'Albania, alcuni degli degli appalti con cui questo rampante barese, attraverso il suo socio Intini, imprenditore vicino al PD, puntava a fare il salto di qualità rispetto alle protesi sanitarie. L'inchiesta per turbativa d'asta si concentra sui rapporti tra Tarantini e alcuni manager di Finmeccanica, ma al momento, confermano fonti investigative, nei vertici del gruppo, sia Guarguaglini e la moglie, né l'ex capo della protezione civile Bertolaso sono indagati. Berlusconi mi chiese se potevo far entrare una società del gruppo Intini nella Sell Proc, ma risposi subito di no, racconta oggi al Messaggero lo stesso Guarguaglini, che conferma invece la collaborazione con Finmeccanica di Debbie Castaneda, già Miss Colombia. Ma questa inchiesta, oltre a scuotere il colosso della difesa e ancor di più il mondo della politica, come dicevi, è un terremoto anche per la magistratura pugliese. Infatti il procuratore capo di Bari, Antonio Laudati, è stato indagato per abuso d'ufficio dai colleghi di Lecce per i presunti rallentamenti nell'indagine, raccontati a verbale dal primo titolare del fascicolo, il PM Giuseppe Scelsi. Contattato da Radio 24, non ha voluto commentare. E per ora è tutto. Grazie Raffaella. E poi ci sono le reazioni politiche al fronte giudiziario. Ne parliamo con Elisabetta Fiorito in diretta. Elisabetta. Sì, buongiorno. Il Cavaliere vuole scendere in piazza contro i PM. Sarebbero queste le ultime indiscrezioni di Repubblica, dopo aver appreso la notizia che il Tribunale aveva rinunciato ai testimoni della difesa sul caso Mills. È inutile provare a difendersi da un processo kafkiano, avrebbe detto Berlusconi ai suoi. È arrivato il momento di chiamare a raccolta gli italiani. Altra soluzione però sarebbe il disegno di legge sul processo lungo, che obbligherebbe il Tribunale di Milano a sentire tutti i testi presentati dagli avvocati Ghedini e Longo. L'intenzione è quello di farlo passare davanti a tutti per approvarlo definitivamente alla Camera entro un mese, e così il processo Mills arriverebbe a prescrizione. Altra possibilità è quella invece dell'accompagnamento coatto del Premier sul caso Tarantini, chiesta dalla Procura di Napoli, ipotesi che però viene respinta dal capogruppo PDL Fabrizio Cicchitto, che assicura la Camera voterà contro. Ma il destino di Berlusconi e del governo sembra anche appeso a quanto succederà proprio a Montecitorio giovedì, quando si voterà l'arresto dell'ex braccio destro di Tremonti, Marco Milanese. I deputati maroniani sarebbero favorevoli al sì, l'opposizione chiederà il voto segreto e tra la maggioranza già serpeggia il pessimismo. L'altra grana sarà poi quella della mozione di sfiducia sul ministro Saviero Romano, prevista per il 27 settembre, e qui sono in pochi a scommettere su un ministro che la Procura di Palermo vuole rinviare a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa. Per il momento qui da Roma è tutto. Studio. Grazie Elisabetta. Sul fronte opposizione c'è il caso Penati. Il Consiglio regionale della Lombardia elegge oggi, nella sua prima seduta dopo la pausa estiva, il nuovo vicepresidente del Consiglio regionale dopo le dimissioni di Penati PD, indagato nell'inchiesta della Procura di Monza su un presunto giro di tangenti legate alla riqualificazione delle ex aree Falck e Marelli. Domenica il grande accusatore di Penati, Di Caterina, ha puntato l'indice contro i sindaci di Sesto e Segrate, Oldrini e Alessandrini, che oggi hanno tenuto una conferenza stampa. Nei verbali della magistratura, a un certo punto Di Caterina dice che quando sono arrivato lui io non ho potuto fare quello che lui voleva. Probabilmente questo è un elemento di astio particolare. Il sindaco di Sesto San Giovanni, Giorgio Oldrini, respinge al mittente le accuse di Piero Di Caterina. La gola profonda dell'inchiesta sul presunto sistema Sesto, che vede coinvolto l'ex esponente del PD Filippo Penati. Se un sistema Sesto esiste, è fatto di impegno e lavoro per il futuro, dice Oldrini annunciando querela contro l'imprenditore per l'intervista di domenica scorsa da Lucia Annunziata. Dalle carte dell'inchiesta, intanto, dopo la conferma del Tribunale del Riesame che ha definito credibili le dichiarazioni degli accusatori, spuntano nuovi particolari sull'operazione Milano-Serravalle e sul sovrapprezzo pagato al gruppo Gavio dalla provincia di Milano, allora guidata da Filippo Penati. Un'operazione inconfutabile, replica però oggi lo stesso Penati, negando qualsiasi aggravamento della sua posizione processuale. Un'operazione, aggiunge, che ha anzi arricchito la provincia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:17 minuti, di cosa abbiamo parlato nella prima parte del GR? Di Standard & Poor's che ha bocciato l'Italia, fragilità di governo, nota di Palazzo Chigi fuori dalla realtà delle cose, ma c'è stata questa mattina una dura presa di posizione degli industriali. Emma Marcegaglia ha detto: o questo governo è in grado di varare riforme serie oppure deve andare a casa. Abbiamo parlato di borse che sono positive, ma dello spread che è ancora poco sotto i 390 punti. La Cina però conferma la fiducia nell'Eurozona e questa è una notizia positiva. Parleremo tra pochissimo della Turchia, dove c'è stata una bomba esplosa nel centro di Ankara. Ci sarebbero dei morti e decine di feriti. E poi parleremo di Roma, della maxi operazione dopo gli agguati, blitz di carabinieri e polizia, 25 arresti. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Partiamo proprio da qui, dall'ultimo titolo che avete ascoltato, da Roma, dal dibattito sulla sicurezza che riguarda la capitale. All'alba di oggi ci sono stati numerosi arresti. 25 persone arrestate, una maxi operazione interforze per ribadire che a Roma non esistono zone franche. Polizia e carabinieri sono intervenuti ieri sera nella capitale dopo l'ennesimo atto di violenza registrato in città, la gambizzazione di un pregiudicato di 33 anni ferito a colpi di pistola nel periferico quartiere del Trullo. La sparatoria è avvenuta davanti a un bar che adesso rischia la sospensione della licenza. La decisione è al vaglio del questore che intanto, di concerto con il comandante provinciale dei carabinieri e il prefetto di Roma, ha messo a punto un piano d'attacco in risposta all'escalation di sparatori e omicidi. Il blitz è scattato ieri sera intorno alle 8 contemporaneamente in 7 quartieri: Trullo, San Lorenzo, Bastoggi, Torbella Monaca, San Basilio, Magliana e Tor Pignattara. 1500 le persone controllate, i cui dati sono stati incrociati con la banca dati della polizia. In manette sono finiti soprattutto spacciatori, 19 di diverse nazionalità, italiani, somali, egiziani e afghani, sorpresi a vendere eroina, cocaina, ma anche hashish e marijuana. 10 giovani scoperti ad acquistare la droga sono stati segnalati per uso di stupefacenti. 6 persone sono state invece arrestate in flagranza di reato per furto. È una prima azione d'urto da parte delle forze di polizia e promette di non essere l'ultima. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo all'estero, in Turchia, dove esplosa una bomba nel centro di Ankara. Ancora incerto il bilancio, perché la polizia parla di 2 vittime e 10 feriti, mentre il governo ha riferito di 15 feriti e di nessun morto. L'episodio, questo è certo, arriva in un momento di grande tensione tra Ankara e l'Europa, la cosiddetta guerra del gas legata alla questione cipriota. Ha il nome della dea dell'amore Afrodite, il giacimento della discordia che riporta la tensione intorno all'isola del Mediterraneo orientale. Nicosia ingaggia una compagnia texana per esplorare i fondali ed ecco che dove si scrive Cipro si legge nuovamente Turchia contro Grecia per il controllo dell'isola e delle zone economiche esclusive di un angolo del Mediterraneo che è anche porta d'Oriente. L'occupazione del 73 della parte nord ha diviso il terzo turco senza poi riuscire a regolare un percorso di inclusione che ha invece portato la parte greca a saldarsi all'Europa. L'ingresso nell'Unione, maggio 2004, non ha semplificato le cose, visto che Ankara è fuori dal club, dove nel frattempo la linea filoturca ha perso sostenitori. L'idea che nel secondo semestre 2012 l'UE sia di presidenza cipriota, come prevede la rotazione, alimenta il sospetto turco ed Erdogan arriva a minacciare la sospensione dei rapporti diplomatici. Intanto muove le navi. Ora che ha imboccato la linea di riaffermazione della leadership politico-militare nella regione, gli spunti non mancano. L'inverno dei rapporti con Israele, la debolezza di Atene e la Siria impegnata a reprimere la protesta interna impongono ad Ankara di fare sentire la sua voce. Intanto Washington invita alla calma l'alleato, ma in un Mediterraneo in grande trasformazione, Afrodite rischia di nuovo di dover ricorrere all'elmetto. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E in Libia intanto un nuovo messaggio audio di Gheddafi: gli avvenimenti con la rivolta dell'opposizione contro il regime rappresentano solo una farsa, ha detto il leader libico. E noi torniamo in Italia, aule sovraffollate, intonaci che si staccano, scarsa manutenzione e sporcizia, le nostre scuole non sono sicure, a ribadirlo Cittadinanza Attiva che oggi diffonde i dati del nono rapporto sulla sicurezza. A preoccupare più di tutti un dato, sentiamo quale da Adriana Bizzarri, responsabile scuola di Cittadinanza Attiva, al microfono di Maria Piera Ceci. Purtroppo anche il nostro campione di scuole monitorate in questi mesi conferma il dato nazionale per cui meno di una scuola su due dispone proprio della certificazione di agibilità statica, e se teniamo presente che il 60% delle scuole italiane verte e è situata in zone a rischio sismico di diversa entità, il dato risulta particolarmente grave. È chiaro che mettere in sicurezza le scuole impone dei grossi investimenti, ma appunto il senso anche di questa nostra iniziativa è di mettere in rete tutte le buone pratiche che si stanno anche realizzando nel Paese per riuscire a investire anche in tempo di crisi. Questo significa che se ci dovesse essere una scossa di terremoto non sappiamo se quella scuola potrebbe averne dei danni o no. Purtroppo è così, esattamente così, soprattutto le 2.800 scuole in zona rossa cosiddetta dal Dipartimento della Protezione Civile sono quelle che certamente rischiano maggiormente, però come sappiamo accompagnato a questo anche la mancanza di manutenzione per alcune scuole potrebbe provocare dei cedimenti strutturali, sovrastrutturali che potrebbero ugualmente creare tragedie purtroppo. Come ne ricordiamo purtroppo nel nostro passato, neanche tanto lontano. Esatto, ricordiamo Rivoli, ricordiamo ancora più di recente la casa dello studente dell'Aquila, ricordiamo la bambina di Zagarolo, i ragazzini e la maestra di San Giuliano di Puglia. Purtroppo ormai le morti bianche nella scuola sono numerosissime. E siamo alla nostra rubrica Paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Poveri ristoratori. In media dichiarano 8.300 euro lordi all'anno, molto meno di un operaio. Non si capisce quindi come mai il settore nel nostro paese muova un giro d'affari complessivo annuo di quasi 20 miliardi di euro. I numeri non tornano, anzi, sono un vero scandalo. Soltanto un titolare di pizzeria o ristorante su 100 dichiara al fisco oltre 100.000 euro annui lordi. La maggioranza, il 60%, dichiara meno di 50.000 euro lordi all'anno e il 34% è addirittura in perdita. Numeri da giustificare una colletta. Un caso eclatante è avvenuto di recente quando l'Agenzia delle Entrate ha controllato una cinquantina di ristoranti di alta gamma segnalati nella guida Gambero Rosso 2010. Confrontando i menù da 100-150 euro a persona e le esigue dichiarazioni dei redditi, sono scattati i controlli. Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. Portando già al recupero di oltre 1 milione di euro fra maggiori imposte e sanzioni, ma i controlli sono ancora in corso e stanno facendo emergere parecchia base imponibile sottratta a tassazione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Calcio per chiudere. Stasera torna il campionato, in campo l'Inter. Il rischio è, sul campo sintetico del Silvio Piola di Novara, di fare un altro brutto scivolone, l'ennesimo di questo inizio d'annata. L'Inter convalescente, dopo il brodino sotto forma di 0-0 rimediato sabato a San Siro con la Roma, va sul campo della matricola piemontese. Potrebbe essere la serata di Pazzini, centravanti della nazionale, ancora a caccia del primo minuto di gioco in campionato nell'Inter firmata Gasperini. Il tecnico, da parte sua, fa quadrato intorno alla squadra, o meglio, intorno alla panchina. Il rapporto con spogliatoio e Moratti è solido, il gioco migliora, dice Gasp. Solo la critica ingenerosa non lo vede. Sull'Inter c'è sempre molta un po' di critica in più, no? Un po' di cattiveria in più nella critica. Poi più sibillina, ecco l'allusione ai presunti torti arbitrali subiti finora dai nerazzurri. Ci sono stati anche degli episodi piuttosto pesanti sul quale si è messo un velo pietoso sopra. Appuntamento allora alle 20.45 al Piola per la nuova puntata della Gasperide Nerazzurra. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione curata e condotta da Anna Rita D'Ambrosio. Grazie in regia a Mauro De Angelo e vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.